ancora una, poi smetto. Le serie TV consigliate da Marta Cagnola. Ancora una, poi smetto. Ci è capitato ancora, ammettiamolo. Doveva essere solo una puntata in più della serie del momento ed è diventata una maratona. Magari una serie con una grande donna protagonista. E cosa guardare quando l'hai finita? Oggi vi consigliamo le serie giuste a tema femminile insieme a una bravissima giornalista, Marina Pierri. Direi che possiamo partire da Orange is the New Black. Serie ambientata in un carcere femminile, una serie dalla portata storica, possiamo dire, Marina. Sicuramente una serie di rottura ideata da Genji Kohan, che ho avuto la grande fortuna, Marta, una volta di intervistare, e che mi ha detto che alla fine quello che veramente le interessa è dimostrare come l'essere umano reagisce di fronte a condizioni che impongono un forte cambiamento nelle proprie abitudini. Tant'è che diciamo anche Weeds, che è la serie che aveva fatto prima Genji Kohan, è una serie che è un po' ugualmente in questa crepa. Lì c'è una donna che diventa una spacciatrice, fondamentalmente Mary Louise Parker, e che deve reagire a questo nuovo mondo nel quale è peraltro praticamente l'unica donna. Qui hai l'esperienza della cattività in una maniera che naturalmente è determinata da quella che è la loro, da quello che è, insomma, è la loro esperienza nel mondo. La loro esperienza nel mondo molto spesso è anche un'esperienza di oppressione. Parliamo comunque di tante donne nere, ci sono anche donne asiatiche, ci sono donne naturalmente anche omosessuali. Si parla tanto di omosessualità femminile, perché anche Orange is the New Black è molto forte dal punto di vista della rappresentazione LGBT. Hai citato Genji Kohan, quindi a questo punto parliamo un pochino della figura dell'ideatore, dello showrunner, perché a differenza del cinema in cui c'è il regista, nelle serie TV i registi possono anche essere tanti in una serie sola. Questa è una specificità dal mio punto di vista veramente meravigliosa, importante, e ti ringrazio perché non è mai sufficientemente sottolineata. La serie TV è, diciamo, anche il film è chiaramente un lavoro corale, però una serie TV si può avvalere nello specifico per un lungo arco di tempo di tante professionalità differenti. Ci sono diverse tipologie di serie TV. C'è il tipo di serie TV che è fortemente di impronta, fortemente autoriale, per cui si ha una o uno showrunner. Purtroppo, diciamo, la casistica vuole che si tratti nella stragrande maggior parte dei casi di uomini, perché, diciamo, secondo le statistiche di Women in Hollywood, se noi guardiamo la stagione americana del 2019-2020, in realtà le donne che hanno ricoperto il ruolo di showrunner, ossia di ideatrici ma anche ponte con le esigenze della produzione, ammontano in realtà a un misero 25%, e non parliamo del passato, parliamo strettamente del presente. Però quindi ci possono essere serie TV autoriali con un uno o una showrunner che anche scrive tutti gli episodi e in casi estremi li gira. Pensiamo per esempio a Fleabag. Fleabag è una serie scritta da Phoebe Waller-Bridge, della quale lei è attrice. Cioè, quindi insomma, questa è una possibilità. Però ci sono anche tante altre possibilità, nel senso che comunque la writer's room può essere molto mista, molto varia. Quindi possiamo avere degli episodi scritti anche da 2, 3, 4, 5 persone diverse, che possono ciascuna rappresentare un punto di vista differente, un vissuto differente e un'esperienza differente, che si può per esempio legare a diversi personaggi. Dai, parliamo di Fleabag. A me è piaciuta moltissimo, cioè c'è questo personaggio femminile completamente diverso da tutti gli altri, c'è questo umorismo che magari al primo colpo non ti conquista subito, perché non tutti possono essere pronti all'umorismo di Fleabag, ma è pazzesca come storia, dai. Avete presente quando un ragazzo che vi piace vi manda un messaggio alle 2 di notte di martedì chiedendovi se può passare a trovarvi e voi gli avete detto che siete rientrate da poco, perciò dovete alzarvi dal letto, bere mezza bottiglia di vino, entrare nella doccia, depilarvi dappertutto, indossare in fretta qualcosa di provocante e aspettare che arrivi e suoni il campanello, per poi aprirgli la porta come se aveste quasi dimenticato del suo arrivo? Oh, ciao. Ehi. Ehi. Ehi. e iniziate a darci dentro all'istante? Phoebe Waller-Bridge ha ideato la serie, che nasce da un suo one woman show, cioè da un suo spettacolo teatrale, e ha successivamente adattato questo spettacolo teatrale per la televisione. Quindi ha effettivamente ideato, scritto e recitato nella serie. Naturalmente non si può fare a meno di raccontare quella che è stata l'enorme importanza di Fleabag nel panorama televisivo, anche per ciò che concerne appunto la rappresentazione femminile, perché qui hai davvero il vissuto di una donna autodeterminata, profondamente autodeterminata, che dunque ha una decisionalità molto forte che noi vediamo essere messa in scena sempre, ma allo stesso tempo non hai una donna perfetta. E questo è un tema, secondo me, di importanza cruciale, cioè nel senso che molto spesso quando si parla di personaggi femminili riusciti si tende a parlare di personaggi femminili molto empowered, ossia personaggi femminili che hanno una visione molto in realtà riuscita, incarnano una femminilità molto riuscita, quindi abbiamo per esempio donne con una carriera molto ben, diciamo, su ottimi binari, donne belle, donne forti, donne che si fanno valere, mentre questo non è sempre vero, nel senso che invece mettere in scena la vulnerabilità di una donna che scrive la sua esperienza di vulnerabilità è comunque molto forte e è anche piuttosto innovativo, proprio perché noi tendiamo a desiderare, quando vediamo una serie TV, che il personaggio ce la faccia sempre, prenda sempre le decisioni giuste, eccetera eccetera, ma io credo personalmente che vedere, diciamo, una donna che sbaglia, e questi sbagli hanno tantissime ripercussioni, ha qualche cosa, secondo me, anche di molto catartico. Un bambino di 11 anni è stato arrestato per aver infilato più volte matite con la gomma nel culo di un criceto. Cosa? Già. Perché fare una cosa del genere? Gli piaceva il suo sguardo sconvolto. No, dico, perché arrestarlo? Ha bisogno di aiuto. Non dovrebbe stare in prigione. Ha stuprato un criceto con una matita. Perché è infelice, le persone felici non fanno queste cose. Questo è vero. E comunque sia, è per questa ragione che mettono le gomme sulle matite, sai? Cosa, per fottere i criceti? No, perché le persone commettono errori. Vero, una trentenne alla quale nulla va bene, ma che reagisce sempre con una grandissima autoironia, un personaggio imperfetto, ricordiamo Amazon Prime Video, come del resto la fantastica signora Maisel. Altro personaggio che ci conquista, perché anche qui non è una donna vincente, è una moglie con un marito così così, che ha una carriera così così, che ha una vita così così, che ha delle cose belle, ma che a un certo punto ovviamente si trova a voler cambiare la propria vita. È un'altra serie irresistibile, un altro personaggio pazzesco. Silenzio. Chi fa un brindisi al proprio matrimonio? Chi si alza nel bel mezzo di una sala da ballo dopo 3 calici di champagne a stomaco completamente vuoto, e ribadisco, completamente vuoto, perché entrare in quest'abito ha richiesto 0 cibo solido per 3 settimane? Chi è che lo fa? Lo faccio io. Questo giorno è perfetto. È come un sogno o un incubo, se sei mio padre. Quanto costano i fiori? Chi mangia i funghi ripieni? Il catering ha idea di cosa abbiano passato gli ebrei qualche anno fa? 2 torte, una da mangiare. Siamo molto felici. Ma questo giorno è stato pianificato da molto tempo. Chi mi conosce sa che io pianifico. A 6 anni ho deciso che avrei studiato letteratura russa. A 12 ho trovato il taglio di capelli ideale. A 13 ho annunciato che sarei andata al Bryn Mawr College. Nella vecchia stanza di Catherine Hepburn. Dal primo giorno sapevo che era stata una decisione fortunata. Did you say I've got a lot to learn? Io penso che Maisel e Fleabag siano state entrambe le teste d'ariete di una nuova rappresentazione femminile che ha preso corpo, e come sempre, insomma, succede, sono state anche due figure che hanno successivamente spalancato la porta. Qui abbiamo un'autorialità diversa quando si parla di Maisel, perché comunque l'autrice di Maisel è Amy Sherman-Palladino, E Shemran Paladino, secondo me, ha un punto di vista molto privilegiato, sul, diciamo, privilegiato in senso diciamo, non tanto sociale quanto storico, perché è stata una delle protagoniste della cosiddetta televisione lineare, cioè in altre parole è stata una delle protagoniste del periodo in cui c'era il palinsesto, c'era appunto c'era quel momento fisso in cui ci sedevamo sul divano, cambiavamo canale, sapevamo che quella sera non potevamo prendere impegni perché dovevamo guardare Una mamma per Amita, per esempio. Mentre successivamente, quando è arrivata la rivoluzione digitale ed è, insomma, preso piede quella che è stata poi l'epoca dello streaming, lì ugualmente Shemran Paladino è tornata modificando, essendo in grado veramente di ripensare la sua stessa televisione per un periodo dalle connotazioni differenti e anche dalla caratterizzato da un'esperienza di visione differente, e ha diciamo costruito uno show pazzesco come Maisel. Anche qui osservazione importante riguarda la rappresentazione. Come con Fleabag noi abbiamo a che fare con una vera e propria antieroina, cioè con una donna che comunque si caratterizza per il suo essere un'eroina, che però non è, diciamo, non è caratterizzata da valori positivi per lo più, mentre invece Maisel molto spesso è un'eroina vera e propria. Cioè Maisel è un'eroina che si batte per quello che è giusto, si batte per la libertà di parola, si batte nel suo, naturalmente noi sappiamo, perché lo abbiamo letto tante volte, il privato è politico, e quello che fa Maisel è precisamente questo, trasformare un'esperienza di abbandono privata, ed è un'esperienza che si basa anche naturalmente sui dettami della società anni 50, e diciamo poi contravvenire a questa diciamo a questo tipo di società andando alla ricerca di quella che è una strada che risuoni maggiormente con la sua natura, che è quella di performer, è quella di artista. Maisel ha anche questa straordinaria particolarità, è una donna artista. Noi in realtà vediamo poche donne artiste, se ci pensi, sul piccolo schermo, Marta, cioè non è che manchino gli esempi, però parlare di donne e di arte io penso che abbia sempre qualche cosa di molto importante e di molto sovversivo. Questa donna che diventa un comico e cambia la storia della sua vita, ma anche la storia della sua famiglia e la percezione delle donne su un palcoscenico. Fleabag invece è una donna che non riesce a combinare nulla, eppure ci sta molto simpatica perché tutti i suoi fallimenti lavorativi, sentimentali, ci fanno molto ridere. Mia sorella è splendida, impeccabile, probabilmente anoressica, ma qualsiasi straccetto le sta d'incanto. Sei appena in ritardo. Ho fatto una cacca rapida in un bar. Dio santo, ti sei lavata le mani? Certo che no. Oh mio Dio, sei disgustosa. Che cazzo fai? Certo che le ho lavate, non sono una che è cresciuta senza madre. Papà, l'hai sentito? No. Nostro padre ha superato la morte di nostra madre ricoprendoci di biglietti per conferenze femministe, scopandosi la nostra madrina e tagliando i ponti. Allora, com'è andato? Oh, tutto signore, bene? Possiamo arrivare all'argomento per due secondi? Non delle so, novità è che ora sulla non cafetteria. Voglio di parlarne, d'accordo? Ok, non ne parliamo allora. Va bene. Hai dei bei capelli. Oh, fottiti, idiota. Niente è così difficile come dire alla tua sorellina di successo, perfetta, anoressica e piena di soldi, che tu non hai un centesimo, niente, tranne chiederle un prestito immediato. Ma devo chiederglielo. Devo chiederglielo. Devo chiederglielo, è solo una domanda. Sì, hai bisogno di un prestito? No! Non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco, non ci riesco. Perciò gli affari vanno bene? Sì, alla grande, alla grande. Davvero alla grande. Già alla grande. Sembra che vadano alla grande. Infatti. Una cosa di Fleabag che a me diverte molto è il suo rapporto col sesso, che è un rapporto disfunzionale, che è un rapporto anche comico. Però se si parla di donne e sesso, e soprattutto se si parla di serie TV con donne protagoniste, come facciamo a non citare Sex and the City? È impossibile, Marta, non citare Sex and the City, perché parlando di importanza di serie TV, e noi finora insieme abbiamo parlato sempre di serie TV molto molto importanti, perché abbiamo parlato di serie TV che hanno forzato i cardini della porta e hanno lasciato che passasse un altro tipo di serialità televisiva, che molto spesso è anche di autrici femminili, diciamo sia Orange che Fleabag che Maisel sono tutte e tre, come abbiamo detto, constano di un'importante autorialità femminile. Invece Sex and the City, che è comunque una serie del 1998, è una serie che nasce dalla mascolinità. È una serie di Darren Star ed è una serie eminentemente girata da Michael Patrick King, quindi da due uomini, però non tutti sanno che effettivamente anche Sex and the City aveva una writer's room piuttosto diversa, nel senso che nelle prime le prime stagioni di Sex and the City, quindi la prima e la seconda, sono girate quasi interamente da delle donne. La pianta su cui Sex and the City è, diciamo, su cui poi sono nati tutti i rami di Sex and the City, è stata la percezione di Susan Seidelman, che ha diretto il primissimo episodio e che è stata la regista di Cercasi Susan disperatamente, per dirne una. I costumi di Sex and the City fondamentali sono di Patricia Field, per dirne un'altra, ma anche alla scrittura noi troviamo tante donne diverse. In realtà è interessante notare com'è si inverta a un certo punto la proporzione. Nelle ultime stagioni di Sex and the City comincia ad essere scritta molto più da uomini che da donne. Però comunque rimane una, diciamo, al di là di questi dettagli produttivi, che non sono dettagli ma sono molto significativi, è una serie che ha la straordinaria importanza di aver generato la prima, una delle prime, parlando di anti-eroine, diciamo, non si può che citare Carrie Bradshaw, che Carrie Bradshaw, un po' come Fleabag, è la donna che sbaglia sempre, è la donna che pensa di aver bisogno di un certo uomo ma in realtà si innamora di un altro, è la donna che ha bisogno che la sua vita proceda su un certo binario ma in realtà la sua vita procede su un altro, sbaglia in una maniera forte, in una maniera diciamo, come dire, continuativa, commette tanti errori, e infatti questo è sempre stato un problema con Carrie per quello che riguarda la ricezione. Sex and the City ai tempi è stato stroncato in ogni modo dalla critica maschile, per dirtene una. Non era per niente una serie amata, si riteneva che I Soprano fosse una grande serie prestigio, mentre Sex and the City fosse una nota a piedi pagina. Ma con tutti i problemi che oggi riconosciamo in Sex and the City, per esempio il fatto di essere completamente bianco, cioè se fai caso non ci sono donne nere, non ci sono donne asiatiche, non, diciamo, sono, cioè veramente quello che si chiama un po' white feminism, se si vuole ascrivere Sex and the City al femminismo, e questa è un'altra questione ancora una volta, però quello che va detto sicuramente è che Sex and the City mette in scena la decisionalità femminile in una maniera che ha starsi precedenti. Perché lei? Io questo mi chiedo. Perché lei? Solo una parola. Abol. Abol. Oh mio Dio. Abol. È vero, signore, lui è Abol. Chi è Abol? Abol. Robert Redford nel film Come eravamo. Oh, io sono impazzita per quel film. Sì, anch'io adoro quel film. Non l'ho visto. Non ci posso credere. Cosa sei, un'aliena? Come mai non hai visto Come eravamo? È da donnette. D'accordo. Robert Redford è follemente innamorato di Barbara Streisand. Katie, è vero. Già, però non riesce a stare con lei perché è troppo complicata e ha un'enorme massa di capelli ricci selvaggi. Guardate, ricci. Esatto. Così lui la lascia e sposa una tipa semplice coi capelli lisci. Ragazze, ho avuto una rivelazione. Il mondo è diviso in due tipi di donne, sì signore. Le ragazze semplici e le ragazze Katie. Io sono una ragazza Katie. E dove sono i nostri drink? Io piango sempre, sempre, sempre nell'ultima scena del film, quando Katie vede Abol di fronte all'albergo con la sua nuova moglie. La ragazza semplice. Devo dirti la verità, guardandola dopo tutti quegli anni, e voglio dimenticare il fatto che ci hai ricordato quanti anni ha davvero Sex and the City, nonostante lo citiamo ancora, ti dico appunto la verità, a volte mi sembra un po' invecchiato, a volte le protagoniste mi fanno un po' arrabbiare, però io me lo riguardo sempre volentieri, cioè se io ritrovo una puntata magari trasmessa per caso, non vado a tirare fuori i cofanetti dei DVD, li conservo gelosamente, li ho tutti. Io non riguardo i film che non sono stati una grandissima idea, però se mi capita di trovare una puntata in TV la guardo ancora con grandissimo piacere e mi metterei ancora tutti i vestiti. Assolutamente, perché ecco, una cosa che volevo dire, Marta, e che ci tengo molto a dire, che tanto spesso noi abbiamo a che fare con delle persone che dicono no, quella è una commedia romantica, no, quella è una serie sui vestiti. Ma in realtà è chiaro che se tu guardi all'amore e ai vestiti come monadi, no? Come concetti che navigano nel niente, è ovvio che ti risultano scarsi. Però il punto è parlare di vestiti in relazione alla donna, il punto è parlare di amore in relazione alla donna, come i vestiti vengono, diciamo, com'è che Carrie Bradshaw si serve dei vestiti per mettere lì fuori la sua identità, com'è che l'amore viene raccontato per dimostrare qual è l'identità delle protagoniste. Cioè, io credo che ci sia stato e ci sia ancora un certo snobismo quando si parla di questi aspetti, però per tanti anni va considerato che, diciamo, l'amore e gli abiti fanno parte un po' della storia anche delle donne, fanno parte di un assetto sociale particolare, per cui naturalmente si sopravvive, si trovano gli strumenti poi per esprimersi, ecco. Dai costumi di Sex and the City, che sono degli abiti meravigliosi, ai costumi di scena di una serie molto particolare, la troviamo adesso su Sky Go, Now TV e su Chili, e The Watchmen. C'è chi crede che questo mondo sia buono e giusto, colorato come l'arcobaleno. Ma il mondo non è colorato. Tutti quei bei colori servono a nascondere com'è in realtà. Bianco e nero. Hanno aggredito i poliziotti di Tulsa dentro le loro case. I poliziotti si sono coperti il volto e i cattivi non sanno dove vivono. Chi non vorrebbe un'identità segreta? Chi si maschera è pericoloso. E dobbiamo temerlo. Perché? Perché nasconde qualcosa. C'è una vasta e insidiosa cospirazione in corso. Se te ne parlassi, tu impazziresti. Chi sei tu? Magari sono il dottor Manhattan. Cazzate, vive su Marte. Qui un femminile tutto diverso. Sì, è un femminile tutto diverso, è una serie veramente molto importante perché innanzitutto ha una protagonista straordinaria che io adoro, interpretata da Regina King, una performance paurosa, Angela Abar, the motherfucking nun with the gun, la fottutissima suora con la pistola. Una serie che è molto carica dal punto di vista politico, io non esito a definire Watchmen una serie militante, anche per ciò che concerne il Black Lives Matter, per ciò che concerne anche la narrativa nera, no? La possibilità che delle persone nere prendano le redini della loro narrativa e raccontino anche la loro esperienza, per quanto calata all'interno di un contesto distopico come può essere appunto quello il mondo raccontato dal Watchmen di Damon Lindelof, che non è propriamente il nostro mondo, però mentre parliamo si può sicuramente dire che noi abbiamo vissuto un po' in Watchmen in questi mesi, perché Watchmen, una cosa che fa Watchmen è che parla insistentemente di mascherine, di maschere, parla di questo mondo strano dove le persone sono costrette a nascondersi perché la società è particolarmente violenta e perché insomma noi ne abbiamo fatto esperienza per altri motivi. Però ecco, sicuramente una serie che risuona oggi con l'attualità e credo che risuonerà ancora con l'attualità, ma non soltanto è importante da un punto di vista in genere tematico, ma proprio anche la rappresentazione femminile di Watchmen, come dicevo, è estremamente significativa. E non soltanto il personaggio di Angela Abar, ma anche gli altri personaggi femminili della serie, quale per esempio Lady Trieu, interpretata dalla bravissima Hong Chau, sono comunque personaggi che riescono a cucire il vissuto femminile all'interno di una trama che è talmente solida da sembrare veramente una rete cucita ad arte, ecco, una rete che tiene comunque, quindi uno show che sicuramente consiglio, la mia serie preferita dell'anno scorso. Please no, no, no, no! Passiamo agli sconsigli. Io te ne faccio subito uno. Non è una serie al femminile, ma è una serie con protagonista una donna. Una donna che io ho trovato antipaticissima, per la quale non ho provato nessuna empatia. E la serie è White Lines di Netflix. Questa ragazza che va a indagare questo crimine, questo cold case, la morte del fratello avvenuta 20 anni prima a Ibiza, lei è assolutamente insopportabile, improbabile, no, non mi è piaciuta la serie e lei è un personaggio che non mi è piaciuto per nulla, non, vedo che a noi ci vediamo, vedo che annuisci, quindi quello è il mio sconsiglio. Il tuo sconsiglio? Il mio sconsiglio è molto vicino al tuo, Marta, perché il mio sconsiglio è La Casa di Carta. Interessante, perché La Casa di Carta è una serie amatissima, ma tu la sconsigli perché? Io, a parte che il, diciamo, La Casa di Carta è ideata da Alex Pina, o Alex Pigna, adesso non sono sicura, tu non so se sai come si pronuncia correttamente in spagnolo, però anche White Lines è sua. Abbiamo trovato il colpevole. Abbiamo trovato il colpevole. Ma La Casa di Carta io non ho, diciamo, io non sono, non, cerco sempre di non essere assolutamente snob, nel senso che per me se uno show piace molto ed è il caso della Casa di Carta, allora io piuttosto che dire siete tutti stupidi, provo a cercare di capire perché una serie risulta importante per così per un numero così grosso di persone. Quindi ecco, la prima persona che si pone delle domande in questo senso sono sicuramente io. Però per ciò che concerne i personaggi femminili, io trovo che La Casa di Carta sia abbastanza pessimo, nel senso che comunque Tokyo non è molto approfondita come personaggio, e questa è sempre una considerazione che bisogna fare quando ci troviamo di fronte a personaggi femminili, se sono lì perché sono lì per compiacere lo sguardo e di chi? Questa è una domanda importante. E in più Tokyo, che per carità è... Tokyo è una classica pupa, ci può stare, il problema è il, diciamo, l'essere molto, il fare perno su quello che è lo stereotipo della pupa senza poi andare a scavare in quello stereotipo, senza, diciamo, specialmente nelle ultime due stagioni a me sembra che Tokyo sia veramente molto molto molto ridotta, quasi a un cartonato, nel senso che fa veramente veramente poco, dice veramente poco, mi sembra che abbia poca identità. Devo dirti che io mi sono divertita con La Casa di Carta, l'ho apprezzata, però Tokyo spesso la prenderei a schiaffi. Esatto, e, diciamo, o comunque insomma prenderemo a schiaffi chi l'ha scritta. Certo. Ugualmente Nairobi. Nairobi è un po', diciamo, è un, diciamo, anche lì Nairobi è un personaggio che esiste perché deve, diciamo, deve riempire la sua quota di slogan. È chiaro che empieza il matriarcato, è uno slogan che abbiamo visto tanto, comincia il matriarcato. È comunque migliore di Tokyo, secondo me, cioè non è un personaggio perfetto, però diciamo in quel contesto è probabilmente non tanto male rispetto agli altri. Però comunque quello che voglio dire è che rappresenta un po', dal mio punto di vista, una femminilità da maglietta, cioè nel senso che sono comunque gli slogan che poi ti stiri sulle magliette con il trasferello e poi te la metti in giro per dire empiezza il matriarcato. Però il punto è poi a questa frase che seguito c'è, e siccome non voglio fare spoiler mi fermo qui. Ecco, non diciamo niente e lasciamo che gli ascoltatori si scannino sulla Casa di Carta. Ti chiedo solo un'ultima cosa sulla Casa di Carta: secondo te perché accende così tanto gli animi? Perché la gente litiga così tanto sul mi piace non mi piace? Io penso che sia, allora, innanzitutto bisogna anche qui inquadrare il contesto della Casa di Carta. La Casa di Carta nasce su quello che è praticamente il canale 5 spagnolo, è una, diciamo, noi probabilmente se fosse nata in Italia, io non escludo che sarebbe potuto nascere insieme alla televisione comunque pubblica, per esempio, perché ha un incedere un po' differente, è molto appiattita sulla trama, è una, insomma, è tutto un è molto stringente, ci sono, diciamo, si parla, si utilizza molto dal mio punto di vista il linguaggio dei social, per esempio, cioè loro parlano un po' come se fossero sempre su Instagram e su Facebook, nel senso che ogni frammento della Casa di Carta è potenzialmente una GIF, cioè c'è stata secondo me una fortuna, nel senso quello è un prodotto che è stato un prodotto che è nato sotto evidentemente delle buone stelle, qualcuno si è reso conto del suo enorme potenziale, qualcuno gli ha dato una grande cassa su Netflix, qualcuno lo ha nuovamente tagliato per renderlo ancora più appetibile nella forma della serialità televisiva strettamente contemporanea, quindi una serie di fattori hanno giocato a favore, però indubbiamente ci sono anche delle istanze che fanno parte del dialogo collettivo, il movimento Anonymous, per esempio, oppure ecco, una serie TV come Mr. Robot in qualche modo si insinua già sulla pista della casa di carta. Si parla di rivoluzione, si parla di sovvertire l'ordine, si parla in maniera però purtroppo dal mio esclusivo punto di vista un po' grossolano di cambiare le cose. Dentro tanti di noi esiste il desiderio di cambiare le cose, il problema è che non c'è molto, forse sufficiente ragionamento su quali sono diciamo le radici di quello che si vuole cambiare nella casa di carta, ecco. È tutto per questo episodio dedicato alle serie con protagoniste grandi donne. Con noi la giornalista Marina Pierri. Con me a realizzare Ancora Uno Poi Smetto Alessandro Schirano e Paolo Corleoni. Tutta la serie è sul sito radio24.it, sulla app di Radio 24 e disponibile sulle principali piattaforme di streaming.